Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Oggi celebriamo la festa dei collaboratori di San Paolo. Ieri abbiamo celebrato la conversione di San Paolo e oggi celebriamo i due più grandi collaboratori di San Paolo, che sono stati due vescovi, Tito e Timoteo, ai quali Paolo rivolge anche e indirizza le sue lettere. Di solito le lettere di Paolo sono rivolte a delle comunità dei credenti. Ma nel caso delle lettere, due lettere a Timoteo e una a Tito, sono rivolte appunto a delle persone individuali. E San Paolo quindi ha questi collaboratori e quindi oggi il Vangelo ci porta a capire quanto ognuno di noi deve imitare in un certo senso San Paolo e i suoi collaboratori. Perché? Perché siamo tutti fatti, tutti noi cristiani, siamo chiamati a evangelizzare, tutti siamo designati come discepoli di Cristo per andare a evangelizzare. E da che cosa lo capiamo? Perché quindi oggi il Vangelo ci dice: in quel tempo il Signore designò altri 72, altri 72, altri rispetto a chi? Rispetto ai 12 che aveva già eletto come collaboratori per portare l'annuncio. Allora, se voi ci fate caso, il numero 72 sommato al numero 12 fa 84 e il numero 84 è 7 volte il numero 12, quindi vuol dire totalità, pienezza, completezza. E che cosa vuol dire questo? Che vuol dire che tutti siamo chiamati da Dio. Tutti noi credenti siamo chiamati a evangelizzare. Quindi se Gesù dice la messa è molta e gli operai sono pochi, come mai dice questo? Se gli operai siamo tutti, tutti quanti, perché tutti siamo evangelizzatori, tutti dobbiamo portare il lieto annuncio, come mai dice che la messa è molta ma gli operai sono pochi? Perché? Perché pochi hanno la consapevolezza di portare a termine e di evangelizzare, pochi hanno la consapevolezza di essere chiamati, di essere collaboratori di Gesù nell'annuncio del Vangelo. Noi pensiamo sempre che lo debbano fare i sacerdoti, le suore, ma invece siamo tutti chiamati a evangelizzare. E quando diciamo, e il Signore ci dice, pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe, è come se dicesse, pregate il Signore perché vi dia la consapevolezza che siete voi stessi quei missionari, quegli apostoli, quelle persone che sono mandate a evangelizzare, perché la messe è molta, cioè la gente che è disponibile, la gente che vorrebbe conoscere Gesù, che vorrebbe conoscere la verità, che vive nel buio, che non sa perché esiste. La gente di questo genere è molta, moltissima. Ma gli operai sono pochi, perché? Perché noi credenti non ci rendiamo conto della grande responsabilità che abbiamo di dover portare la luce nel mondo, di poter portare un po' di pace, un po' di serenità. E tante volte diciamo, ma io non sono capace, ma come faccio? Non so evangelizzare. Ecco, una cosa è certa, noi impariamo a fare ciò che dobbiamo fare facendolo. Quindi non ci impressioniamo, non ci tiriamo indietro, non mettiamo come alibi io non sono capace. Perché? Perché se viviamo quello che il Signore ci comanda di vivere, se ci amiamo tra di noi, noi automaticamente porteremo il Vangelo agli altri, se non altro attraverso la testimonianza della vita. Allora oggi diciamo al Signore, eccomi, mandami, io voglio avvicinare le persone a te, voglio attraverso la mia relazione con gli altri dimostrare il tuo amore. E per concludere vorrei citarvi un aforisma di Aristotele che dice: Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo. Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo. Buona giornata.